Buonasera ragazzi, qua Danilo, qualcuno in ascolto? Buonasera ragazzi, qua Danilo, qualcuno in ascolto? Ciao Danilo. Ciao, buongiorno, buongiorno. Sto facendo la prova della del nuovo CB che mi è appena arrivato. Perfetto, ciao Danilo, Gavino qua. Oh, ciao Gavino, ciao. Da dove sei, a Sorcio? Sì, Sorcio, periferia di Sorcio. Avanti di nuovo per te, Dani. Ascolta, come mi ricevi? Come mi ricevi? Io ti ricevo forte e chiaro. Ti ricevo, la radio è Radio 5, segnale 6S6, S6S7, ma la radio è comprensibilissima. La ottima. Che apparato è, Dani? Guarda, ho preso un SS6009 e ci stavo smanettando adesso e devo dire che è davvero bello, bello davvero. Ce l'ho uguale, ce l'ho anch'io, cioè cos'hai? Il V, io ho preso il V, CRT6009, io ce l'ho il V. Sì, adesso mi stavo regolando la riduzione del rumore perché ho visto che c'è la scheda PCT in ingresso e fa davvero il suo, fa davvero il suo. Ascolta Dani, quanti watt li stai dando? Guarda, adesso sto uscendo a 15 watt più o meno, se vuoi provo ad aumentare. No, no, non aumentare niente, allora adesso ti dico la regolazione del mio. Io ho l'RF Power e in pratica è dove c'è la R, dopo RF Gain c'è il pallino, poi c'è RF Power, io ce l'ho tra la R e la F. E poi devi fare una modifica in quella radio lì, se vuoi che spinga bene col microfono originale, se vuoi te la dico. La modifica è metterò in EL invece che in dinamico, giusto? Perché se quella l'ho appena fatto, proprio poco fa come ci stavo smanettando. No, devi schiacciare, devi schiacciare funzione, accendere, fare RB, NB Anal e DW di sequenza, capito? Tu schiacci function, tu tieni premuto function e accendi, e poi subito devi fare RF Power Anal e DW, e devi andare in una pagina, devi stare attento a toccare quei parametri però, in pratica l'intensità microfonica, e ti aumenta la radio e il doppio rimane sempre chiara. Io sto utilizzando adesso un Saturn Echo, però c'ho anche quella lì, c'ho anche questa qua, e qua davanti, e gli ho fatto quella modifica io, Dani, ed è, guarda, assurda. Sì, praticamente entri nel menu di fabbrica, diciamo, delle impostazioni dove c'è tutti i valori, proprio quello di fabbrica suo, e vai a toccare quel valore. Sì, no, lo faccio. Comunque ho visto a tuo fratello proprio ieri. Sì, io non lo vedo dal suo compleanno, dal 10 gennaio. Da un po', no dai, spesso e volentieri già lo vedo, Paolo, e mi fa piacere, troppo solo Paolo, guarda. Yeah. Ma tu in radio mi copi chiaro? Guarda, come se fossi seduto a fianco a me, praticamente, chiarissimo. Sì, sto utilizzando il mic originale del Saturn Echo, diciamo come potenza siamo intorno ai 50 watt. Intorno ai 50 watt con sul microfono originale. Fai quella, guarda, su YouTube c'è proprio il tutorial di come fare la modifica. Ti segni i parametri originali della casa e loro lo danno a 31, mi sembra, dalla fabbrica. Tu lo porti a 50, io l'ho portato a 50. E poi c'hai la modulazione, anche per regolare la modulazione in uniform sera bravo, perché lei, sì è vero, da 30 watt, però se non fai questa sorta nel menu service, non ti arriva a 30 watt, da picchi di modulazione a 12-13 watt, massimo 15, invece con quella modifica lì arriva proprio 30 modulati. Buono davvero, no, la faccio, sì, no, ho già visto qualche cosa appunto su internet prima di prenderla per vedere un po', infatti alla fine ho puntato su questa anche perché c'aveva le bande laterali ed era quella cosa che mi interessava, diciamo, ed è una figata. Ma ascolta, ma ho un passaggio in USB, lo proviamo per vedere come va? Aspetta, dammi Dammi un attimino di coso che attacco il 6009, così ti posso dare tutte le cose chiare chiare. Aspetta, dammi un attimino. Sì, ti aspetto, sono qua in ascolto. Danilo. Ci sono, eccomi qua. Ok, io sono con la radio qua tua, col 6009V. Sì, ti sento bene, come prima. Guarda, uguale, non noto particolari differenze. Non è più forte, vero? No, lo sai che ti sento uguale, diciamo, dai, così orecchio sembrerebbe uguale. Sì, sto utilizzando quella lì, sto utilizzando quella. Allora, vuoi provare in manda laterale? Vai uniforme Serra Bravo. Yeah, sto andando adesso. Va bene, si spendo perché è la cosa che mi interessa di più proprio. No, ma la radio va bene, la radio è perfetta da fare. Hai fatto un affare e poi... Allora, io l'ho portata sull'SVR, io quando vado in trasmissione nello schermo mi appare la lettura dell'SVR, perché ho sempre perché è sempre quello che tengo sotto controllo, capito? Sì, no, anch'io. Devo dire che l'antenna è stata perfettamente, tu immaginati che sul canale 1 e sul canale 40 c'ho 1.2, 1.3, a centrobanda proprio 1.0, 1.1, ad esempio adesso oscilla tra 1.0 e 1.1, quindi è proprio tarata bene, no, su quello mi sono affettato proprio bene. Sì, tu pensa, io sto utilizzando intorno ai 300 watt, io con questa radio qua, sempre io per ogni radio ho un amplificatore, sto utilizzando un RMI Italy, sono intorno ai 300 watt, però è come segnale come ti arrivo, guarda l'SVR, guarda un po', prova radio, prova, guarda come ti sto arrivando lì come segnale. Guarda, mi stai arrivando a 9, proprio precisi spaccati. Sì, è tipo dell'antenna, che, dai, poi quando metti le verticali, poi quando metti la verticale vedrai che ti cambia, è tutto un altro mondo, ma se proprio senza discussioni, vedrai che ti diverti ancora di più. Passa in Lima Sierra Bravo, vedere com'è in Lima Sierra Bravo. Infatti siamo proprio molto easy, abbiamo un Midland M30, giusto per vedere un attimino, e ho appunto montato una boomerang per vedere, addirittura prima stavo usando una barra mobile il Midland, per vedere un attimino se c'era movimento o quant'altro, ho visto che appunto sui 10 AM o 12 FM c'era movimento, allora dopodiché ho iniziato, cioè ho deciso di fare qualche cosa in più per la radio, adesso il prossimo passo sarà per l'antenna. Sì, infatti, no, c'è movimento, Dani, quindi già ne vale la pena, già le chiacchiere già si fanno. Prova a passare in Lima Sierra Bravo, aspetta che avevo l'autoparlante esterno scollegato perché ho fatto un piccolo intanto audio qua in stazione e avevo il mixer scollegato. Passa in Lima Sierra Bravo a vedere. Sì, guarda, ci sto passando in questo momento. Eccomi Gavino, mi senti? A voglia, guarda un po' la Lima Sierra Bravo quanto è più bella della Uniform, la Lima Sierra Bravo è proprio bella. Sì, devo dire che ti sentivo bene sia in FM che qua, allo stesso ti sento con la stessa qualità dell'FM più o meno. Sì, ma diciamo che poi è una radio che non devi andare a tarare, a fare, l'importante è che quando entri nel sottomenu non tocchi tutte quelle impostazioni di fabbrica, perché poi ti diventa, diciamo, ci potrebbe inguagliare qualcosa, però la radio è perfetta, hai fatto un bel acquisto. Cosa dici, passiamo in FM? Sì, passiamo in FM, così magari se c'è qualche altro magari ci dice. Adesso passo. Eccomi qua. Ascolta, Gabi, ma praticamente il pomello che c'è per il centraggio della frequenza, a te ti rimane perfettamente verticale o di uno scatto verso destra, quindi sulla lettera I? No, mi rimane dopo, proprio sopra la I rimane, perché è un po' spostato il tuo. No, anche a me mi rimane così, pensavo che dovesse rimanere in verticale, cioè dritto perfettamente in verticale, ma ho visto che poi la frequenza non è più centrata, infatti anche a me mi rimane quello sopra la I, e come mi dicevi prima l'RF Power l'ho messo sulla R, ma ce l'avevo leggermente più indietro, ma l'ho messo anche lui lì dove mi hai consigliato tu. E una ventina di watt ti sta dando una ventina di watt con l'RF Power lì in FM, e in AM di lì dovrebbero essere intorno ai 5-6 watt. Quando se ti capita di parlare in AM lo metti al massimo, capito? Per cui ti devi ricordare che in FM, in banda laterale, anche in banda laterale lo devi tenere al massimo, però in FM dove tra la R e la F, capito? Poi io posso anche darvi, adesso lo sto sollevando e lo metto, l'ho messo dove c'è la P. Perché io sto usando questo amplificatore che accetta 35 watt di ingresso e posso portarlo anche a 20-22 watt, però in genere lo tengo qua dove c'è tra la R e la F e sono sicuro che sono 20 watt effettivi. Vai di nuovo Dani. Ho capito, sì, però ti devo dire, guarda, mi sta davvero piacendo, ma davvero, questa radio è una gran cosa. Ma poi la qualità dell'audio, cioè come ti ricevo, qua ti ripeto, sembra che sia seduto accanto a me, chiacchierando. Sì, no, è buona, è una radio qualità prezzo. A me il 9009, guarda, io preferisco, mi piace il 7009 e questa qua è il 6009. Io volevo prendere il 7009, però la pecca del 7009 che hai l'ingresso microfonico col cavolan, quindi è un po' un problema. Se devi cambiare microfono devi avere sempre la clippatrice per farti le intestazioni oppure andare a cavi spellati, mentre il 6009 ha il connettore 4 poli come tutti i classici Galaxy, e allora puoi anche divertirti e usare fare anche prove microfoniche, mentre con quello era un po', mi ha fermato questa cosa a me, eh? Io ho preso il 6009 per quello. No, io la verità l'ho preso perché, ti ripeto, stavo un po' guardando il 6009, il 7009 e quant'altro, il 7009 è tanta roba lo stesso, poi però ho trovato questo qua, che praticamente è l'ultima versione del V8, col tanto di scontrino ho pagato 196 euro, perché ce l'ho davanti adesso, ho pagato a praticamente 100 spiccioli euro, cioè una figata, cioè il prezzo davvero, c'è anche la pellicola ancora nel display, infatti ho detto, vediamo cosa mi arriverà un mattone, invece non mi è arrivato lui e va bene, va davvero bene. Quella ti consiglio di toglierla perché ti macchia lo schermo, perché lo schermo, se dopo che lo tieni anche un paio d'ore acceso, diventa un po' caldo, quindi quella ti consiglio di toglierla, io l'ho tolta. Tu considera che io ho anche il microfono amplificato apposta per questa radio. Sì, quindi praticamente tu nelle impostazioni la radio invece di averla su L ce l'hai su Dynamic, giusto? L'hai cambiato con l'impostazione o non c'è stato bisogno? No, ce l'ho in elettrica, lo devi mettere solo se hai un microfono a condensatore, ma questo qua io sto usando il suo originale ed è, cioè, sempre in dinamico, capito Dani? Non l'ho cambiato. In elettrico lo metti se hai un microfono a condensatore o un microfono, ma neanche amplificato, un microfono a condensatore, basta. E con la capsula elettrica, che invece di richiedere la batteria, te lo gli dà la radio direttamente l'alimentazione. Oh, hai fatto bene a dirmelo, perché c'è l'impostazione, io ce l'ho in L proprio, adesso cambio. Quindi, ma come mi stavi sentendo così con l'impostazione in L? Perché stavo appunto sfugando, visto che era impostato così. Mettilo in dinamico a vedere. Guarda, un secondo e lo cambio subito. Guarda, ora l'ho messo su dinamico. Come mi ricevi? Come mi senti? E la radio è più forte, La radio è più forte e più bella. Ah, e allora lo lascio così. E poi adesso non c'ho neanche il manuale per vedere com'è l'impostazione di default della radio, la verità, però lo lascio in dinamico se modula meglio così. No, così io ti copio meglio, eh? Io così ti copio meglio. Il livello microfonico quando ce l'hai, Dani? Guarda, te lo dico subito, dammi un secondo, al massimo, tutto quanto al massimo. Aspetta, guarda quanto c'ho il mio. Il mio ce l'ho a 60. Ah, ok, guarda, aspetta che lo riguardo un attimino, forse ti ho detto un altro valore, non vorrei che ti ho detto qualche cazzata, dammi un secondo solo. Sai che non riesco a trovare. Ascolta, e che numero è la voce della regolazione del microfono? Te lo ricordi? Vai, funzione, tieni premuto il primo, C9. Nello schermino dei canali ti esce proprio 1 e C9. Ah, ok, ecco perché l'ho saldato. Guarda, lo sto guardando proprio in diretta. Guarda, sono a 61. Quanto mi dici di metterlo? Io l'avrei lasciata così, Io l'avrei lasciata così perché è perfetta. Oh, perfetto, allora lo lascio così, guarda, neanche lo tocco. Adesso sono curioso di mettere, invece delle stazionarie, di farmi vedere il voltaggio della batteria, diciamo così, perché con questa radio ho preso anche l'alimentatore nuovo, invece del solito alimentatore da 5, sono passato all'alimentatore da 10 ampere. Io, guarda, ho due alimentatori da 30 ampere a cascata, quelli cinesi, e li ho messi dentro uno chassis e utilizzo quelli, ho 60 ampere. Ho 60 ampere e ho attaccato radio e amplificatore, perché l'amplificatore mi assorbe 40 ampere e la radio non assorbe tantissimo, la radio questa qua in alta potenza assorbe 5 watt, ma 5 ampere, non ti credere che assorbe chissà cosa. Ah, lo sai che pensavo fosse di più, la verità, adesso sto guardando il livello di voltaggio che ho trovato, la voce dei 13,2, quindi buono. Sì, 13,2, 13, io ho portato, gli alimentatori li ho portati a 14 volt, 14,3, li ho impostati a 14,3 in modo che quando vanno in trasmissione magari scendono a 14 e hanno la corrente sempre bella costante lì, Guarda, io la verità, ho provato questo qua con un tester e ho visto che lui a vuoto è 13,9 e poi appunto adesso così con questa potenza e quant'altro stava andando a 13,2, ma a voglia, ce la mettiamo. Oh, però sono curioso di provare poi l'alimentatore da 5 ampere per vedere se ce la fa, ma tu dici che a piena potenza anche in FM riesce a portarla questa radio, no? Sì, consumano 5 ampere. Insomma, non lo portare giusto perché magari ti lampeggia lo schermo, però io te l'ho detto, ne ho due da 30 ampere a cascata, gli ho fatto il collegamento in serie e ho 60 ampere, 14 volt 60 ampere, con 60 euro ho 60 ampere, ma adesso ti ripeto, l'amplificatore attaccato e sto consumando in tutto sono 35 ampere, ne ho altre 25 a disposizione. E alla grande, io adesso che mi hai detto del display ho notato che in FM l'assorbimento rimane uguale, quindi il display rimane sempre uguale, mentre invece con le bande laterali lo sai che leggermente ho visto che il display praticamente ho visto che non la pigia, però ho visto che varia di illuminazione. Sì, varia, anche il mio in banda laterale prende e varia come dal picco, ma no, non è niente, non ti preoccupare, non è niente. Lo fanno, beh, ci mancherebbe, guarda che le funzioni che ha questa radio è un'ottima qualità prezzo, quindi ce ne sono migliori, io ho anche gli HF, col 440, 450, ma non li uso qua in 11 vetri. Perché sono radio che scaldano molto e poi sono un peccato utilizzarle qua. Io ho detto, mi prendo un baracchino nuovo, ho preso questo qua e sono veramente soddisfatto, Dani, veramente soddisfatto. Poi ho anche, quando ho voglia di trasmettere vintage, ho anche un Saturn Echo, un Galaxy Saturn Echo, non so se lo conosci, e ho anche un President Lincoln. Quindi, te l'avevo detto poi, del President Lincoln, quando ce l'avamo sentiti per il 3009. Il President Lincoln ce l'ho, diciamo, innestato con un'antenna cornuta, tagliata per gli 11 metri, e qua utilizzo la verticale 5 ottavi della Grazioli che commuto tra il 6009 e il Saturn Echo, e queste qua sono le mie condizioni. Va di nuovo, Dani. Dai, quindi non si è messo male, c'hai vari apparati, ti puoi divertire, dai. Ascolta una cosa, ma a fine trasmissione c'ho il Roger Beep attivato, giusto? Che ho visto che me lo segna, però mentre sull'M30 lo sentivo proprio lo sentivo anch'io, così non sento niente come rilascio il microfono, ma penso che tu lo lo ricevi? Sì, è molto, è cupo. Adesso ti faccio sentire il mio, guarda, perché questo non l'ho regolato io. Ok, eccolo qua, guarda questo qua, gli ho fatto la regolazione perché puoi regolare anche il Roger Beep. Bello, bello, sì, ho visto che ti dà praticamente la frequenza, adesso è messa su 10,50, e tu a che frequenza l'hai messo, e anche la durata, quanto l'hai impostato? Aspetta che guarda, te lo dico. Buonasera a tutti. 3205, buonasera, avanti, chi è? Vabbè, scusami che sto facendo una cosa con Danilo, capito Dani? 3000 è a 3000 e diciamo il tempo è di 2 millisecondi, cioè 2 secondi, scusa. Allora guarda, l'ho portato per adesso a 2050 perché ho visto che gira di poco alla volta. Ce l'ho su, dovrebbe essere mezzo secondo, comunque Roger Beep. Scusami, è 10.50 il mio. Ah, ok, io l'ho messo a 20.50, così come lo ricevi? Lascialo così è bello, sembra Beep Cold, lascialo così. Quanto l'hai messo? 20.50? Esatto, 20.50 l'ho messo. Il mio è molto fine, Dani. Sì, lo sai, è molto molto fine, sì. Aspetta che lo metto anche io a 20.50. Avanti con la buonasera, Antonio. Compagnia Danilo a Porto Torres, avanti Antonio. Ok, così è a 20.50. È più bello, lo sai che è più bello? Lo sento meglio. Mi piace. E allora guarda il tuo, così. Vediamo un po', ho bussato, forse da Sassari, Antonio ci sei, sei tu? Boh, no, non riprendo. E va bene, no, vabbè, io non lo uso mai il Beep, eh. Io non lo uso mai il Beep. Però me l'avevo fatto così a mio piacimento, me l'avevo fatto il preascolto e l'avevo voluto fine. No, no, è bello, ci sta bene. Ascolta una cosa, oltre al filtro rumore tu usi anche il filtro quello che ti taglia i toni alti, quello IC, diciamo così, che ti segna, ti viene segnato con quella dicitura? Sì, beh, altrimenti senti un disastro. Guarda, adesso lo provo per vedere come ti sento. Guarda un po'. Guarda, prova ad andare a vedere così, me lo provo proprio in diretta. Ok, guarda un pochino, prova radio, test, guarda un po'. Sì, effettivamente si sente più chiaro, c'è ragione, adesso lo lascio così attivato. Oh, scappo un secondo, Gavi, dammi giusto 2 minuti per non aggiungere il pellet alla stufa. Sì, anche io mi allontano un attimino. Ok, via subito. Sì, anche io. Antonio, ma ci sei? Sei di tu, Antonio, che hai bussato? Ciao, Gavi, tutto bene? Chi è? Buonasera. Sono Davide da Sorso. Qui, Davide, e allora, e Gianni? Qui qua con me si sta mangiando la focaccia, stavamo parlando della resistenza, adesso la cerchiamo. O come si chiama? Com'è quella cosa lì? No, la bobina variabile, gli ho mandato la foto. Già me l'ha mandata a me la foto, ma adesso la cerco io, che lui non vede bene, gli compro queste bobine variabili a vedere. Se le trovo online. Guarda, tranquillo. Io poco fa ho preso, gli ho cambiato quel transistor che c'era da cambiarli. E ci manca quella bobina. E va bene. Come ti va? E con cosa se ne va niente? Quella salata russa che capisce che sta boccaccina. No, lui è strago, prosciutto e salata, un po' d'olio extravergine. Cro. Gianni, non vi sei entrato stasera? Sì, Gabbi, tutti rossi nel uriale, mi sono sdraiato. Sì, ma me l'ho immaginato. Io mi stavo facendo fuori, poi ero un po' meno che drento. Ho cambiato un transistor, quelli piccolini, però vivo chissà bobina. Se no è un disastro, o se no tocca sacrificarla dall'altra, eh? Amari estremi sono i rimedi. Ok, noi vabbè ci sentiamo, adesso io scappo, ti lascio a Gianni, già ce l'ha l'altro vicino. No, c'è il PMR, vabbè, già chi siete qua, poi se ne voglia già entra. Ciao Gabi, ciao. Ciao Davide, mi senti buone antenne e te la pone pure tu alla radio, mi sono qua tra ragionate la notte. Va bene, buon proseguimento, dai, e buona cena quando la farete, se l'avete fatta, buona digestione. A dopo, mi allontano un attimino. Già, sono anche acceso in PRM. Non so se hai sentito, è entrato anche Danilo, un ragazzo da Porto Torres, che si è installato il CB, non so se ieri o oggi. E va bene. E riprendo subito. Sono rientrato, mi Dani, io ci sono. Tino, e beh. Yes. Vediamo un po'. Antonello, ci sei? Eccomi Capino, sono rientrato io. Sì. Io col filtro H, col filtro degli altri ti sento un po' cupo, lo devo togliere. No, io perlomeno dalla prova che stavo facendo prima ti sento bene, non ti sento male. Cioè no, mi garba, poi magari. Sì. Boh, preferisco col filtro degli altri inserito un pochino. Forse qua l'impianto sto usando io di ricezione un po' va a pompare un pochino i bassi, Sì, sicuramente, poi magari conta che io sto usando la cassa sua della radio, magari quindi ci sta bene, magari è un po' più stridula, mentre tu che magari mi stai ascoltando su un altro parlante esterno che c'è una qualità migliore, magari mi senti meglio così senza il filtro degli altri. Sì, esatto. E qua la notte siamo, cioè una, quando ci siamo tutti c'è una bella ruota. No, ho visto, qualche volta anche già con l'M30 ho partecipato e dai, non era male. È che ti ripeto che ero limitato lì perché comunque era un giocattolino, questo in confronto c'è cioè, mille regolazioni, mille tutto e si sente bene, invece con l'M30 davvero si sentiva male e quant'altro, la qualità proprio era un po' così e quindi alla fine mi stava facendo passare da fantasia, ma adesso come ha preso questo, ti ripeto, ti sento la gente in grazia di Dio, finalmente con un filtro e quant'altro, c'è tutto un altro sapore, diciamo. Eh beh, tutto un altro mondo, poi vedrai, ma te la fanno installare l'antenna sul tetto? Sì, no, io sono qua, cioè da me l'ho piazzata qua in campagna dove sto, diciamo, quasi sempre e l'ho messa proprio sul tetto, quindi sicuramente per quello che la boomerang messa così mi rende qualcosina in più, capito? Sì, e vabbè, allora metti il coso, la verticale che vedrai quanto ti diverti. Perché poi passi in banda E di lì a 27.555, fai chiamata e fai collegamenti. L'altro giorno io ho fatto un collegamento in Australia qua con 300 watt, l'Australia è difficilissima, ho fatto collegamento a Rovera e ce l'ho nel quaderno, comunque in Australia. Buono. No, ti ripeto, io ho messo la boomerang sul tetto perché qua tocca un sacco di vento, quindi ho detto prima di rompere un'antenna Siria, però con questa qua e vedo un attimino, ho messo tre tiranti con il sagorino in nylon e ho visto che comunque si comporta bene col vento, quindi adesso diciamo me la posso tentare anche con un'antenna più seria, so che comunque è tirata bene col sagorino e quant'altro, non dovrebbe succedere niente, diciamo così. No, che non succede nulla, Dani, ma no. Se ne metti anche tre tiranti, no, non succede proprio niente. Ti prendi un amplificatorino e gli attacchi l'amplificatorino, vedrai quanto ti diverti. Sì, senza ombra di dubbio, però ti dico, tu pensa che il primo giorno che l'ho montata praticamente c'era calma piatta e non avevo fatto in tempo a mettere i tiranti, dopodiché il giorno dopo ho fatto una maestravata della Madonna, tu non puoi capire cosa stava ballando, ma ballando seriamente, tant'è che appena piena ma di poco si era assorta infatti l'aveva drizzata, e dopodiché l'avevo messa appunto il sagurino, con quello ho visto che invece tiene bene, però senza, cioè se non metti i tiranti, ciao. Tu considera che io la Grazioli ce l'ho, la Grazioli è quasi 8 metri come antenna, e ce l'ho, e io sul tetto ho un traliccio in alluminio di 9 metri, un traliccio in alluminio 40x40, il tubi sono da 50, traliccio che usiamo noi per fare l'installazione dei palchi, l'ho messo sul tetto, avevamo 9 metri di traliccio che era fuori certificazione, me l'ho preso e me l'ho installato sul tetto, quindi ho 9 metri di traliccio più altri 8 metri di antenna, e niente, e quindi io l'ho installata così, gli ho fatto una sorta di basculante per quando lo devo abbassare, però qua lo stesso qua il metrale tocca, però è tranquilla, già balla, ma non è mai come un antennino da una verticale da 70-80 euro che si fa tipo canape perché poi si spezzano, no. E la stessa cosa ti consiglio per la mantova, tu ti prendi una mantova, una LEM o un'antenna un po' robusta, o altrimenti ti pigli una Grazioli e te ne cavato tutti i pinsamenti. Ascolta, come l'hai fissato poi il traliccio nel solaio con i tassili chimici, cioè col chimico, perché dunque quello mi sa, aperti una struttura del genere la vedo dura. È fissata a chimico ed è fissato lui a chimico con le sue, diciamo, con i suoi spigot, e poi è fissato anche a muro, capito? Alle barre a muro. Sì, sì, lei ha fatto il doppio fissaggio, quindi praticamente quattro barre filettate nel solaio, e più le ha messo una sorta di collare, diciamo, che te la tiene anche fissata al parapettino che c'hai. Oh, e dove va? Si è fissata bene. Collarino sono gli aliscaf, proprio per i tralicci, gli aliscaf che tengono tanto, ed è fissata così. Di lì io salgo anche in punta al traliccio, cioè per fare salgo anche in punta, perché ho anche dei dipoli o delle antenne per fare ascolti sulle bande HF, e niente, ce l'ho così. Poi considera, io per ascoltare in 80 metri ho un'antenna tagliata onda intera, ho una delta loop di 86 metri, non è 86 metri alta, ma è 86 metri di circonferenza, è un triangolo, ed è, tu considera, in punta al traliccio, quindi sono 9 metri, più la casa è 4 metri, e fa da una parte all'altra, ho costruito un tubo alto, un tubo telescopico alto, e poi va a finire a 3 metri a terra la punta del triangolo. Io mi diverto a costruirmi le antenne di poli, queste cose qua, capito? Quindi mi piace proprio farmele da me, a parte quella di questa, diciamo, la Grazioli, che l'ho presa, diciamo, un amico me l'ha venduta, era seconda mano ma nuova, però le altre me le costruisco tutte io, anche una cornuta, un'antenna cornuta tagliata per gli 11 metri, ed è bella anche quella, è molto silenziosa, però i segnali sono quasi uguali alla Grazioli, e poi ho anche una direttiva. E c'è un bel po' di roba, ascolta, ma prima una curiosità, in che zona sei di sorso, nella parte più bassa o addirittura nella parte alta? Io sono dopo il rifornitore, la parte bassissima. Ah, ok, dai, adesso quando ho capito in zona già alzo lo sguardo per vedere se trovo un bel po' di antenne montate su qualche casa, che così so che sei tu. Io rimango dopo il rifornitore sulla destra, un chilometro dopo il rifornitore sulla destra. Il rifornitore che c'è quello adesso, giusto, dovrebbe essere? Dopo Tamuil. Tamuil, quindi il rifornitore è quello prima di entrare nel paese, allora, proprio? Sì, sì, in campagna, io sono in campagna. Ho capito, la classica strada che poi ti porta, diciamo, a Castelsardo, praticamente, da lì si gira a sinistra invece di andare dritto per andare a Sorso. No, devi andare dritto per andare a Sorso, per venire da me. Sì, ho capito. Adesso quando passo di lì per andare a Sorso già ci faccio caso. Là, sicuramente tutto quel bel po' di antenne già si vedono anche dalla strada. Sì, le vedi sulla destra. Tanto che vedo proprio sulla strada principale. Ma tu dove sei? Di Viale Lioni, Dani? Allora, io la campagna, non so se c'hai presente dove c'erano gli zingari, che adesso praticamente c'è il serbatoio del gas. Da lì, diciamo, dove c'è, chi ti posso dire, dove c'è Sanna, il pastore, Gianmario, Domenico Sanna, non so se li conosci, di lì praticamente. Sì. Ho capito, dove c'è Sanna, sì, dove c'è anche un meccanico, un ripicchese, così. Bravo, esatto, proprio lì. Comunque guarda, linea d'aria 50-70 metri da Sanna, praticamente. Capito, quella è una zona buona, amico. Quella è una zona buona, tu da lì se ti metti la verticale guai. Tutto in piano. Allora, diciamo che la zona buona, migliore, è se mi piazzavo tutto a casa a Montangelo, perché lì praticamente dal tetto vedi di tutto e di più, solo vedi lì sei in condominio, quindi rotture di palle varie, sai come funziona, e quindi alla fine ho optato per mettermi qua in campagna, che salgo sul tetto, il tetto è mio, faccio quello che mi piace, però fosse stato di lì a Montangelo, di là proprio a spazio su tutto, cioè vedo proprio Golfo della Pesinara, cioè vedo realmente tutto, credi, solo vedi là che ripeto, è il condominio e quindi le classiche rotture di palle. Oh, per essere con la boomerang, cioè è ottimo, guarda che sto uscendo veramente bene. Cosa hai usato, le RG58, Dani? No, ho usato, guarda, te lo dico subito, dammi un secondo che ho il cavo qua, allora, che non me lo ricordo, comunque quello grosso, il 2, aspetta che guarda e te lo dico. 213, RG213, come questo che ho io. Esatto, bravo, proprio l'RG213-1000. Quello è verde, comunque verde forestale, diciamo. Sì. È buono, e anche il cavo vuol dire tanto, Per uscire con una, per essere con una boomerang stai andando bene. Non puoi dire niente. È perfetta. E poi adesso piano piano, se ti piace, vedrai. Io per esempio non spendo per le radio, io non ho tantissime radio come ci sono altri corrispondenti, ho tante radio, ma tante, anche belle, però io investo molto, a me non è che investo, io spendo più su analizzatori di antenna, su, diciamo, roba, su attrezzatura per autocostruirmi le antenne, mi diverto così perché alla fine ho la radio, ma se non ho antenne non faccio niente, quindi mi compro un analizzatore di antenna, mi compro un nano VNA, mi prendo queste cose, mi prendo toroidi, mi prendo le ferriti qua per mettermi in stazione, perché io ogni cavo che metto almeno tre ferriti, capito? Quelle ferrite a clip per i ritorni di RF, e niente, mi assilo più su queste cose qua piuttosto che stare a comprare radio. Sì, no, ma poi il divertimento è lì, e poi ho visto qualche video dei nano VMA, ma è fighissimo, cioè come ti analizzano l'antenna, il CVR dell'antenna, cioè è fighissimo davvero. Guarda, io mi sono preso, cioè l'anno scorso proprio quando stavo iniziando a entrare in questo mondo, mi sono preso il certificato, come lo vuoi chiamare, SWL, appunto per il radioascolto, e c'ho qualche portatile appunto per fare il radioascolto, e da lì, cioè, mi sono aperto un mondo, tant'è che ho provato anche delle varie antenne, Diamond, per sentire banda aerea e quant'altro, e ho visto che l'antenna fa davvero la differenza, ma realmente la differenza. Sì, ma tu hai anche la PRM, tu puoi entrare in PRM? Sì, c'ho anche una PMR, sì. E allora, prova a mettere 446 e 100. Guarda, dammi un secondo, che vado a prenderlo un attimino e la proviamo. Pino, Gianni, ci sei? Non è vero, gente, con le orecchie pelose. Vamos! Oh, Gabi, ascolta a me. Ci sentiamo dopo che c'è. Mia moglie mi sta torturando, che è pronta la cena. Dai, dopo cena, se ci sei ancora, sono qua. Sì. Già accese sono le radio. Intanto potrebbe entrare, magari entra Franco, entra Gianni, entra anche Tino. Sono anche io qua, non ti preoccupare. Buona cena Dani, dai, a te a QRA, a dopo. Grazie mille, a dopo allora. Ciao. Allora, mi sentite? E allora, tutta colpa della matematica è. La matematica non è un pignone. E ne manco una gurona. Una gurora. Oh, va bene. Rovinati siamo. Insomma, dimmi tu, questi guerriglieri cosa ne hai combinato a Torino? Non l'hai vista, giù mai lo cabisteggiano, bastava di non andarvi. Certo, ma quando mai non lo sanno che quando sono in rivolta di cuscini mi fate in bocca un casino, ma niente. Vai che a chi si la più pigliate, la più cuita a quei piedi piccoli, la più pigliate, a chi si manifestanti, vai. Andare a manifestare non fanno una via di travaglio, cosa si manifestanti? La Lecce di Topolino. Ma infatti, ma che cazzo che da voi, cosa andano a manifestare, da che cazzo sono tutti con un Rolex, con un coso, tutti figli di papà, ma che cazzo è, non sanno nulla, cazzo. Non vanno, non sanno nemmeno cosa sono andando a fare, sa niente. A chi sono una massa di mandronazzi, quando vai tu devi andare a Codino a pigliare e andare a fare una manifestazione ai matto di Macedo. Non lo sanno nemmeno trattare un macchietto. Se tu vedi un video, piglia un macchietto dalla metà. Non sa nemmeno pigliare un macchietto, anche un macchietto non si piglia dalla metà, manico. Si piglia dal culo di romani con un macchietto. Non so buone, a chi secondo che la gatta ne piglia un macchietto per il culo a faccia. Ehi no, a faccia solo per il culo. Vai che come hai detto tu, no, chi si non ha nei servizi. E poi picchiare una persona in maniera ruenta così non va bene a prescindere che era buistotto, che era anziano, che era carriera, non va bene, io vi era brutto che su questa specie di frucca di gomma che tirassa lo zazzo brutto. No, in Chivi, ma vattene di quello, sapevo lì in Chivi, Uria, chi è il capo della Digos? Tanto era anche lì nella manifestazione, no? Devono dubbi a punire gli enti così, i poliziotti, fino a un certo punto. Grazie a Dio la polizia, lo Stato italiano verrà i mezzi, no? Quando è così, dubbi a dirla chi su questo 190 in Chivi, no? Con questo 190, dubbi a dirgli, compà, attendi l'idrante e poniamo la prima, vai. Ammazza quanto viene, cazzicheggia lì, schiacciali. Non è bello quando ti vedono 190 che non si ferma e ti può castigare vero, eh? No, questo non è bello, quelle non sono cose belle. In 10 minuti si sarebbe risolto tutto, chi aveva cominciato a fare tipo spazzaneve, lo so che ti sei riusciti tutti quanti. Figuriamo, 190 è una terna. No, figli, è forza di bella mia, che si non è di castigheggia. Sai, va di brutto e poni di asa, a nemmeno si entra a 70 all'Aiburi, non vi credi tu? E intanto non è diriccato, solo quando si avevano visto un mozzichino a rivendi, a chi prima l'aveva fatto una petta con un metro caffettone, a poi l'aveva ecchicciato per i garroni, fidati. Ma che, di brutto. Comunque così come sta arrivando, bene cazzo? Sì, già, sei perfetto. Ho attaccato il lineare adesso, tanto era un cavetto. No, è perfetta già, è perfetta, perfetta. No, non ve ne di cose, è perfetta. Ma anche con Galaxy usciva ancora meglio. Sa cosa ti è successo a te in Chivi? Ed è un disastro a chi pensa che il modulo finale che le cose li giammi in una torrata uno o due giorni lo fai, ma quando giambi i finari e non andano ancora in trasmissione, seguito tutta la linea e non va ancora in trasmissione, in chi vi è dai da pintare, eh? Ci vuole tempo, ci vuole pazienza e ci vuole cosa, non vivo pressa, non ci vuole fretta, perché se salti solo un componente può essere perché vedi la con la bobina variabile. Poi su te gli pigli di cavi la bobina variabile, metti la bobina nuova e il componente che c'è a fianco va e si rovina, perché magari la bobina, perché dai, vuole fatto bene. Quindi è un pensa che i ciambili finali, se guardi tutte le misure, tutto lo stadio finale e il modulatore, uno guarda, di lì sono più che altro, diciamo, dio di Zener, sono dei trimmer da controllare, ma in un giorno lo fai, un giorno e mezzo lo fai. Il disastro è quando, porca miseria, devi cominciare a controllare l'alimentazione, i correnti, queste cose così, allora in chi mi diventa un bel problema. Come era il mio, uguale. Sono glissato, quanto ci sono stato io già, te ricordo, mi sono glissato 2 mesi mi attaccato lo mio, però ogni adì mi punivo, io 2 mesi ci ho messo a riparare il mio, 2 mesi. E io kappa, ma lo fa, mi adesso ho attaccato il lineare. Come sta andando con il lineare? Più forte esce? È un po' più chiara la radio, ma è un po' più corposa, un po' più chiara. Anda bene, da. Anche tu l'amplificatore lo devi sempre attaccare, sempre. Io lo attacco sempre l'amplificatore, io quando attacco la radio attacco l'amplificatore. A me non mi devi dire, ma non c'è bisogno, ma io lo attacco a chi mi piace. A voi se non c'è bisogno, questo lo vengo io, non mi devi tu. E infatti è così, adesso gli ho messo la ventolina e lo lascio andare un po'. Ma si sente la ventolina? Sì, si sente, ma lasciala stare, meglio che si intenda che vai dando la valvola, fottiti, già andava bene. Oh, via Coromeo, e vabbè, stavo dicendo, ma se là mettiamo i potenziometri funziona bene, quello là quello che lo saldiamo quando magari lo troviamo. Già, ti chiamo, ne parliamo al telefono. Sì, io andavo. E beh, Dania, mi senti? Sta mangiando. E ha detto che si è preso la radio come la tua, quella CTR 6009 V8 violette, come te. V8 turbo. E belle sono quelle radio. Se non mi sbaglio ce l'ha anche Giovanni Stanco. L'altro giorno in un gruppo di CB ha scritto che chi lo poteva aiutare, che non so cosa vi ha toccato, ed era se non ne funzionava più. E in chi vi ha toccato i parametri della fabbrica, vedi, per sotto menù. Lo possono fare solo loro, non è che puoi prendere, entrare, perché non te le fa più regolare, sì te le fa spostare, però non te le fa più portare alla normalità. Quindi questa radio è da pigliare i piedi. C'è anche Giulio uguale. Giulio da Sassari. Sì, c'è anche Giulio uguale. Sono belle radio, modulano bene. Stavo guardando, ma Franco Torre non ne ha più. E ce li hanno tutte in Inghilterra, ce li hanno fuori e curcano un bel, e quindi no, non vale la candela. Ma io a te ti raggio detto, compareggia di una radio così. Tu sei andato in alto, ho usato un ecco. Raggi tu piglia di una radio così. E già me l'avrà a comprare, a base mi sta romare a pacca o a pasquetta. Già le metteranno sempre. Se tu visemo nel senso di essere tutto quanto a pulsi, no? E niente, perché cazzo, la mia vita è una vita di sofferenze, porca troia al mondo bastardo, fuggirando sia un re. Uia, mi umilio. Mettino no, a tu fuggirando sia un re, cosa entra un re? A chi ti si vira un re una volta, no, che si ha mangiato tutto. Uia, va bene, va bene. prenditi, ascolta a me, ti prendi l'Alinco DX10, si chiama Alinco DX10, è uguale a questo qua, però è l'Alinco DX10, è un po' più superiore. Se la becco già vedo di sbirciarmela, eia. E niente, poco fa c'era detto se ha acceso il faro di punta scorno. Sì, lo dicono sempre, lo chiedono sempre alla nave. Lo chiedono sempre alla nave se il faro di punta scorno è, diciamo, in funzione. E beh, perché passano da lì, poi la nave lo comunica. Siamo ancora che ci riveli che la nave deve andare da Goso, da Ponte, radio, ma vedere se lo fare di punta scorno è la stessa. Io non lo so come. Io non lo so come te, se una cosa non ci deve essere con la tecnologia che abbiamo, non devono avere un qualcosa, un sensore, un qualcosa che dice anche wifi, una festa, se sta funzionando il faro. Ma io non lo so. In chi vi sottimendi, Gavi? Sottimendi un fantasma che dici che... Allora, ho letto la storia di punta scorno del faro. È iniziata la costruzione nel 54, mi sa, e l'hanno terminata nel 58. E poi era sino al 77, c'era il custode che poi dice che è morto, e quindi il faro era infestato da un fantasma. E allora l'hanno reso automatico. Poi non lo so se è vero. Dilli. Dille a vedere, sì, vabbè, da, se a me mi dici, ci vuoi andare alla Sinara a fare il fanalista e ti porti tutta la tua famiglia e non paghi niente, e ti paghi, mi dà lo stipendio. Dilla, la ragione di se c'è un fantasma, la ragione ti fuggi. Ehi, a te fuggi, io me l'avevo buscato da Piccani, Gabbi, l'avevo detto io che dovevo andare a cara un poco di renta, a pochi Sara che è un poco durati, a io porca Marubuntu. Grazie per fantasma, andano i poco di macchini, fantasmi, non ridassano il sangue di sono i muschi, no? Non ridassano il sangue in parte di muschi, non di sonno. Bisogna dimmi di vivi, non rimuschi già. Dilli a vedere se vogliono fare, se vogliono un custode fanalista mi fanno la proposta a vedere cosa esci. Mollo tutto quanto visto che forte, come fa una cosa, secca di bassona, io me ne sono andato alla Sinara, me ne vado in vacanza una vita. Mi danno lo stipendio e mi rimango in chiva alla Sinara, ma proprio giuro, pure se vai a tornare una volta torni il sabato, anche se la famiglia rimane qua, e torni il sabato e la domenica, perché c'è uno che ti sostituisce, oppure lo metti a me automatico, va bene, ma regoli i cani in chivi, lui una baja, ma regoli i cani, mi sono in chivi, mi buscio tutti le radio, mi buscio. E ti posso vedere cosa esce da chi mi dà la punta a scorno. Mi pongo 2 kg ho fatto di amplificatore nel compareggio. No, Vigridi, altro che no, già è Toguia, lì se ti danno un buono stipendio, se c'è tutto, se c'è scuole, se c'è queste cose, va bene, perché puoi andare con la famiglia e sì, ui, a tutto gatti qui. E da voi non manca nulla, né pesce, né carne, non manca nulla in lì. E cosa manca? No, manca da solo, capito? No, beh, scuola non ce n'è. Manca da solo. Torni magari, cosa ne so, il venerdì, torni il venerdì notte, c'è un sistema automatico che fa funzionare il faro fino a lunedì mattina, e poi lunedì rivai, e te ne torni il venerdì sera, capito? E te ne torni. Stai bene perché mi bucio i cani in chivi, il radio, ui, è già in nulla già, dice il faro di punta scorno sta funzionando di brutto, mi dice avere un fantasma sopra, io ci posso travagliare. Ma che, scrivi di Bobby in giro una notte in chivi, tutti quanti in greffa insomma. Ma che? Altro che fantasma, ne tieni poco vesseria, fantasma sì, ne tieni fantasmi, a me pare invece in chivi sì, sottimente assumi una passonata, sta in Chivia, che qui c'è troppo, intanto qui sono fatti nulla. Mio no, mio bisnonno era fanalista, mio bisnonno ha fatto il fanalista a Posa e il fanalista alla Sinara, capito? Quindi io a chi ti so, se mi dicini, andare a fare un fanalista, mio bisnonno era fanalista di lì alla Sinara, era fanalista alla Sinara, tu pensa che lui, che loro di lì, mio nonno era piccolo, hanno assistito all'affondamento della Roma, della corazzata a Roma, capito? Era proprio piccolo mio nonno, quando mio bisnonno faceva il fanalista di lì alla Sinara. Figlia, togue in Givi, è bello, poi è micidiale, si mette la natura, il silenzio di tutto l'ambiente, è bellissimo lì, è bellissimo. E il faro è micidiale, anche quello di Bosa è bello il faro. Io la storia, se non sbaglio, l'ho letta da Google, ma l'ho letta così perché stavo cercando una foto di Punta Scorno, del faro di Punta Scorno. E niente, quindi mi è uscita tipo la storiella, che non so se era Wikipedia o così, e allora mi ha intrigato a leggerlo e vi riuscivo a leggerlo, vi chiedino per riuscire mi va di così imbecilini, perché c'è questa rietta alzina e fredda terra e mi gancareggia i beti. Ma anche qua il pavimento già è freddo, anche qua il pavimento già è freddo, già è l'umido, innazza, l'umido. E noi qua umido non abbiamo perché tutto è fatto, però è freddo, però quando è freddo e non vi puoi fare nulla. E quindi c'è il fantasma che non fa di travaglio a nessuno. Secondo me è che si è pigliato vero fantasma in Chivi. Ma no. Ma avevo fatto questi puntini con lo fantasma in Chivi. No, sì, ne avevi visto barbecue andendi a denutti. Embriaghira con lo fantasma. E uiuia, bene a vedere a tutti. Da voi avete acceso il radio, qua in collegamento da Houston. Ma sai così ci fuochi da in Chivi? Ma tu lo sai così ci fuori da lì, così ci forte da lì, da Punta Scorno, fai tutto, di lì prendi tutto. Tu piazza un casino in Chivi con 2 kg, battono il tutto di pure un faro. Eh sì, mi pare proprio di sì, a chi con lo specchio del mare e poi sei vicino a un bel di rughi, chi si antenna va da tipo zinzola, sempre viaggiando. Ed è bello, a chi da voi di buchi un ciao, un motorino e stai a tutto il tempo in Ghiglio, se no la motocross, però la motocross è più pericolosa. Un motocross.